vida da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Vorrà la vita da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Vorrà la vita da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Vorrà la vita da superstar. Scassato pezzo tranquillo, fin da bambino, il mio destino. Odia, mi insulta, mi intanto io rido, faccio il cretino. Amo la donna quando fa il pompino, ci trovi in giro, scrive la bio, faccio un inchino. Il tuo disco se l'ascolta, solo un bambino. Il disco vecchio, lucestino, sali sul palco, fai casino. Salgo le views dei video, amano quello che scrivo. Spinto, incazzato al micro, ringhio, cane cattivo. Umile, ma hai fatto il figo, è pronto a darti il castigo, testigo. Ci distingui, scassa il nostro dipinto. Spinto al limite dell'incredibile, fanculo le vostre critiche. Continua a crescere, zero benessere, persone pessime, malessere. Sei solo un essere, zero culture e maschere, persone spastiche, zero lavoro, mantenuti dalla madre. Che raccontano solo cazzate, solo cazzate. Vorrei una vita da superstar. Vorrà la vita da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Vorrà la vita da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Vorrà la vita da superstar. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Come? Super tipo la TNSA, super tipo qui Dog Effect. Resta a guardare, non te ne andare, dopo vendiamo lo stile anche a te. Agili in strada tipo le mini, occhi alla sesse, due schiaffi e pinguini. Intratteniamo cristiani, alziamo le mani, per questi io faccio i casini. Qui tutti fanno successo, a me fai cagare lo stesso. Io rappo in cantina al lavoro, se muoio fanculo registro più grezzo. Non vendo la voce, ne incido, se vuoi la mia voce cretino, tirami fuori il verdone, dentro un sacchetto d'erbone che pesa un bel chilo. Mezzo è un rapper italiano, nato a Milano, la cui di Oggiaro, il quarto non è piano. Trema la stanza se Flavio regista, Flavio di mezzo è regista. Tu sei un pallista, palle di fotta con il sottoscritto, io faccio del male linguista. Vorrà una vita da superstar. Ah ah ah, ah ah ah. Come? Vorrà una vita da superstar. Ah ah ah, ah ah ah. Come? Vorrà una vita da superstar. Vorrà la vita da superstar. Ah ah ah, ah ah ah. Come? Rap videogioco, comprati la console. Save i pezzi con la penna, scrivi i pezzi con l'iPhone. Watermore, suona il gong, con l'hip hop è fatto il flop. Date al gol, fai la colfi, io registro un'altra song. Ho il brutto vizio di non leccare il culo. Fossi pisciaturo, forse a quest'ora sarei qualcuno. Questa roba è Viagra rap, a cazzo duro, con il rap ricchione mi si ammoscia come col mormuro. Siamo rimasti io e te e le zanzare, tutti in vacanza e noi andiamo a zanzare. Sei andato a Zanzibar o al bar a giocare, Milano e Zamblata ci vanno a sciare.